Storiacce di Raffaella Calandra. Ho iniziato praticamente a bere moltissimo già da subito. Ho iniziato purtroppo a bere anche di mattina. Mio figlio si era segnato. Mi trovavo le bottiglie nascoste nei posti più strani. Abbiamo bevuto solo 2 litri. Senza mangiare. Ops, devo andare. Scusa, ciao. Ciao, bella. Signori, buonasera. Trevor. Ciao. Abbiamo ricevuto una soffiata anonima su dei minorenni che bevono alcolici qui dentro. Ah, non esiste proprio. Sono stato qui tutta la sera. Amico, ti voglio bene. No, però. Io te ne voglio di più. Questi nani del circo non sono in grado di reggere l'alcol. Le vedi sedute al bar, le prime, a gruppi numerosi per lo più fuori dai locali, i secondi. Belle, in carriera, per lo più quarantenni, le prime. I secondi invece di anni ne hanno sempre di meno, ma bevono sempre di più, bevono fino a star male. Nelle loro mani troverete cocktail diversi, diversi per ingredienti, costo e preparazione, ma sia le prime che i secondi hanno gli stessi problemi di dipendenza da alcol. Le donne sono sempre più simili ai colleghi uomini, anche in questo i ragazzi italiani sempre più vicini a quelli nord europei. Ma quanto spesso nei bar si chiede un documento a chi ordina anche solo una birra? Da un lato si invoca dunque prevenzione contro la diffusione dell'alcol tra gli adolescenti, dall'altra nessuno fa applicare la legge che ne vieta la vendita fino ai 18 anni e questa forse è anzi la più disattesa delle leggi. E da qui allora, da uno dei classici luoghi della movida, quelli che fanno arrabbiare i residenti per i rumori notturni, parte questa puntata di Storiacce, quando l'alcol diventa una dipendenza per i ragazzini, ma sempre più spesso pure per le donne, con ricadute drammatiche sulla salute. Ho iniziato praticamente a bere moltissimo già da subito. È stato, non dico fisicamente, ma emotivamente distruttivo. Sono arrivata a bere moltissimo. Che cosa vuol dire bere moltissimo? Una decina di bottiglie quando lavoravo, comunque, insomma, me le facevo. Ma bevevo quando dovevo relazionarmi. E gli ultimi tempi, che stavo incalzando velocemente la cosa, iniziavo a bere anche da sola, insomma, sì. E quasi non lo ricorda oggi Chiara, il momento in cui giovanissima ha cominciato a bere, ma ricorda perfettamente che le bottiglie avevano preso il posto delle amiche andate via da quel paesino del profondo sud. Le cercava per compagnia, divertimento, per solitudine e le cercava anche per conforto e aiuto. Le ha cercate sempre di più in un rapporto che lei stessa ora definisce malato, ora che ne è venuta fuori e sa perfettamente di essere inserita in quel 20% di alcolisti composto da donne. L'abuso di bevande alcoliche si diffonde nell'universo femminile a gran velocità, comincia per lo più tra aperitivi e feste, finisce tra bottiglie nascoste sotto al letto e figli disorientati. Come è stato per Esther, nome di fantasia di una donna oggi cinquantenne con almeno 2 decenni di dipendenza finiti col programma di recupero degli alcolisti anonimi. 16 anni, ho iniziato di brutto, ma semplicemente limitata ad una sola volta. Per una persona che non ha mai bevuto alcol, bere una bottiglia intera di Sambuca. Iniziai a bere così per caso, veniva utilizzato solo esclusivamente i sabati e le domeniche, così mi serviva un po' per poter essere più eccentrica, perché di base ero molto introversa. L'alcol le serviva a recuperare un po' di sicurezza, ma lei quindi beveva soprattutto nei momenti liberi. È andata avanti così per quanto tempo? Fino a lavare sono andata avanti così. Ho deciso volontariamente di avere un figlio e quindi in quel periodo chiaramente non bevevo. In effetti sentivo l'esigenza di tanto di bere, però... Cioè, e quando il bambino è cresciuto? Quindi quando ho iniziato a bere molto di più, diciamo che mi creavo degli espedienti per poter bere più spesso durante l'arco della giornata. Poi, lei ha sempre bevuto da sola o anche in compagnia? No, ho bevuto anche in compagnia. Preferivo queste riunioni proprio perché potessero essere una scusa per poter bere in aumento, per cui poi ho subentrato anche un divorzio. Ho iniziato purtroppo a bere anche di mattina. Era diventato purtroppo indispensabile bere, perché altrimenti non potevo. Ce la facevo non perché da una parte avevo la necessità, ma la necessità era anche legata, sembrerà strano, ma io riuscivo a guidare bene la macchina, riuscivo a fare anche determinati, chiamiamoli piccoli interventi di ordine sanitario, pure chirurgici, con l'aumentare del dosaggio chiaramente, no? Poi sono iniziati i problemi fisici, formicolio, cattivo utilizzo della gesticolazione stessa. Sono andata veramente in una forte crisi di identità, quando mio figlio si è rassegnato in un certo senso, quando mi trovavo le bottiglie nascoste nei posti più strani. Cioè, allora dall'inizio alla fine è durato una ventina di anni. Esther continuava anche a fare degli interventi chirurgici sui pazienti, nonostante le bottiglie che si scolava, e continuava, come molti altri, anche a guidare l'auto, nonostante avesse bevuto. I rischi di un alcolismo sempre più diffuso sono anche questi, sono quelli che si allargano all'intera comunità, oltre al diretto interessato che danneggia la sua salute. E questo diventa un problema sociale. Quante volte abbiamo raccontato di ubriachi al volante che fanno strage? Infinite, purtroppo. E la questione va declinata ora anche al femminile, visto che sono diventate il 40% degli iscritti le donne inserite nei gruppi di alcolisti anonimi. Quarantenni, in carriera, con famiglie alle spalle e reddito abbastanza solido. Questo è il profilo di un fenomeno che sta solo ora cominciando ad emergere, ma che ne è certo, come quello di Novi Ligure, in Piemonte, dove lavora la dottoressa Valeria Zavan, è già evidente in tutta la sua problematicità. Anche le indagini internazionali dicono che comunque nelle donne il grosso problema sta attorno ai 40 anni, perché bisogna ben distinguere le intossicazioni acute da un problema di abuso che si sviluppa nel tempo o di una dipendenza che segue un abuso, no? Questi problemi tendono a svilupparsi nel tempo, perché le altre sostanze in generale, quando uno perde il controllo, se ne accorge molto prima. Cioè, quella parla delle droghe, certo, se ti prendi un acido, cocaina piuttosto che altre cose, che hai una reazione immediata, che sono spesso associate nelle giovani generazioni. Quindi l'utilizzo, la sperimentazione e l'utilizzo multiplo di sostanze è una caratterizzazione delle giovani generazioni nei confronti delle vecchie. Ecco, ma nello specifico di questo aumento preoccupante dei casi di alcolismo tra le donne, che sì, tipo di ragioni ha? Come sommerso, con problemi di alcol ci sono sempre state. Cioè bevevano di più nel segreto delle loro stanze? Sì. Il prototipo. Anche la letteratura, diciamo, è piena di donne che di nascosto bevevano, però ecco, non si aveva l'idea non solo del problema come fenomeno di massa, ma non si aveva l'idea del diventare addirittura alcolisti. Questo, certo, è un altro discorso. Ci sono stati due cambiamenti fondamentali, e sono stati dei cambiamenti culturali. Il primo è stato che le donne hanno assunto un ruolo diverso. Il prototipo della signora di mezza età, depressa, che in solitudine beve a casa sua, comincia a scemare. Cominciano a essere determinati altri fenomeni, come per esempio la presenza di abusi di alcol in donne che fanno carriera. Quindi il modello è donna manager, donna in carriera che finisce di lavorare e va fuori a bere, ma va a bere non un bicchiere, ma molto di più. Cose che possono partire con il drink, con gli amici, dover in qualche modo essere competitivi. In questo senso le donne delle nuove generazioni che lavorano tendono ad avere dei modelli, anche rispetto all'uso di alcol, molto più vicini a quelli maschili. La seconda cosa è che effettivamente nella diminuzione del trend dei consumi che si è avuto in Europa negli ultimi 20 anni, le donne hanno smesso di meno degli uomini. Quindi, cioè, così come è successo per le sigarette? In qualche modo sì. Oltre alla emulazione forse anche di un comportamento, di uno status che è maschile, spesso però dietro ci sono i problemi. Quali sono i più frequenti che portano ad avvicinarsi alla bottiglia? Dai problemi sul lavoro, ai problemi familiari, a problemi di tipo psichico, a volte anche francamente psichiatrico, come i disturbi d'ansia e le depressioni. Un'altra fascia ad altissimo rischio sono le persone anziane, tipo rimangono vedove, oppure avevano un ruolo sociale prima perché lavoravano eccetera, e poi si trovano pensionate senza sapere cosa fare. Cati, Si è scolata tutta la bottiglia? È meglio del latte del burro. Ah, bene, bene. Andiamo, Katy, su. Andiamo. Si tiri su. Andiamo. Da brava, stia su. Su. Stia su. Ecco. E l'alcol, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce, sulle donne provoca pure dei danni maggiori che negli uomini, proprio come accade ai più giovani, sempre più a rischio per colpa di mode come la NIC nomination e di leggi che nessuno fa applicare. Le piccole e grandi domande della vita quotidiana avranno finalmente una risposta, anzi, due. Deborah, in fondo, di che cosa si parla tutti i giorni a casa, in famiglia, al lavoro, con gli amici? Di soldi e di salute. Di mutui. Di dieta. Di lavoro. Di problemi del cuore. E anche di quelli del portafoglio. Cuore e denari, finalmente insieme. Dal lunedì al venerdì alle 11, su Radio 24. Storiacce. Alle colonne di San Lorenzo a Milano o a Trastevere a Roma. Li incontri spesso anche davanti ai bar, poco lontani dalle loro scuole. Hanno una birra in mano o un cocktail e quanto bevono poi lo vedi a notte fonda, nella distesa di bicchieri a terra o sui tettucci delle auto parcheggiate. Bevono sempre di più, ma hanno sempre meno anni, anche se in teoria la legge vieta di vendere alcolici al di sotto dei 18 anni. Ma questa è forse la più disattesa delle norme italiane, perché nessuno controlla e praticamente nessuno al di là del bancone ormai neanche chiede l'età o un documento a chi ordina birra, per lo più i maschi, o un breezer, soprattutto donne. Ma a volte lo fanno pure dei giovanissimi che comunque conoscono perfettamente i trucchi per procurarsi le bottiglie. Sono 1.620.000 i giovani tra gli 11 e i 25 anni considerati consumatori a rischio nel nostro paese. A rischio perché è estremamente facile procurarsi da bere, visto che quasi non esistono i controlli e quindi le sanzioni per chi vende l'alcol ai minorenni. E sempre più a rischio per colpa di nuove tendenze. L'ultima si chiama NIC nomination ed è un must tra i social network, tanto da far accendere una lampadina d'allarme a Ettore Scafato, direttore del reparto salute dell'Istituto Superiore della Sanità, che ha scritto pure a Facebook. Sono più di 1.600.000 giovani di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, consumatori a rischio in Italia. Diciamo una metà di questi all'incirca al di sotto dell'età minima legale, quindi parliamo di 800.000 ragazzini, io li chiamo ragazzine, che hanno in vendita e somministrazione bevande alcoliche, ma la ricevono anche in famiglia, perché la prima abilitatrice al consumo alcolico, si sa, è la famiglia. 1.600.000 giovani a rischio che bevono anche al di sotto dell'età consentita. Qual è la maggiore età? 18 anni l'abbiamo innalzato di recente con il decreto Balduzzi 2 anni fa. Prima era 16 anni ed era vietata solo la somministrazione. Invece adesso è stato inserito anche il divieto di vendita. Nella pratica, giovani e giovanissimi a cui si dà da bere senza verificare l'età. Hai compiuto 18 anni, sei maggiorenne, mi mostri un documento. La domanda che ci sentiamo ripetere ad ogni età, quando ad esempio si va anche a estero, non so, negli certo. Stati Uniti lo chiedono praticamente certo. A chiunque. In Italia lo abbiamo verificato, non lo si chiede quasi mai. Questo è un punto centrale. Assolutamente, c'è una disapplicazione delle norme, può essere anche mediata dagli adulti stessi, magari un adulto che acquista e poi cede la bevanda alcolica al minore. Pone un problema di rispetto della legalità. Stando questa situazione di inadempienza anche del rispetto delle norme, diventano quasi inutili anche tante campagne per la prevenzione. Se da una parte si fa prevenzione, dall'altra non c'è alcun controllo nel rispetto di una norma che pur vieterebbe appunto la somministrazione di alcolici ai maggiorenni. Le campagne alla prevenzione non possono andare alla velocità delle mode. Da happy hours, open bar, drink as much as you can, pubs pro crawl, cioè sono tutte cose appealing, come dicono i ragazzi, no? Qualche controllo forse un po' più ferreo nella somministrazione dell'alcol ai ragazzini forse potrebbe portare un po' in più anche al rispetto rispetto di questa norma che mi sembra forse una di quelle più disattese in Italia. Che dice, professore? Concordo e non aggiungo altro su questo, perché chiaramente è evidente. L'invito a bere si diffonde nei canali che sono utilizzati dai giovanissimi nei vari modi, secondo le tendenze più diverse. Le nick nomination, una sorta di istigazione a bere, in cosa consiste? Un ragazzo, una ragazza invitano altri tre amici su Facebook a bere alla goccia una bottiglia intera di un qualsiasi tipo di alcolico. È chiaro che la persona deve rispondere in quanto nominata e deve fare altrettanto, nominarne altre tre. È una casina di Sant'Antonio che porta chiaramente all'intossicazione e ha portato all'intossicazione in alcune parti del mondo anche alla morte. E rispetto a questo noi non abbiamo strumenti, perché io ho scritto personalmente a Facebook dicendo che veniva leso appunto una delle norme di Facebook che diceva non bisogna invitare all'autolesionismo. Io ho detto ma intossicazione alcolica è un invito all'autolesionismo, mi è stato risposto che questo non violava le norme della community. Chi le fa le norme della community? Perché i ragazzi non sono posti nelle condizioni di scrivere non mi piace, invece sono obbligati a usare solo un tasto mi piace su Facebook? È una democrazia falsa. Tutto quello che c'è, molto spesso, oggi come oggi, è intriso di sponsorizzazioni anche alcoliche. Grazie. Sempre di più e si beve sempre prima, dunque, con danni per la salute sempre più gravi però, ma estremamente sottovalutati sia per i giovanissimi che per le donne, come racconta sempre Scafato alla nostra Nicoletta Carbone, la nostra esperta di salute. L'alcol è una sostanza potenzialmente tossica per tutto l'organismo, è un luogo comune che il danno sia limitato al fegato. Altri organi bersaglio sono infatti il cuore, gli organi del sistema ematopoietico, dell'apparato digerente, del sistema nervoso centrale periferico, senza dimenticare i disturbi affettivi ed ansia. Sono tante le patologie alcol correlate che colpiscono indistintamente uomini e donne, anziani e ragazzi, ma i ragazzi sono più sensibili degli adulti agli effetti dell'alcol e possono riportare danni più gravi. L'alcol scioglie, lo sappiamo, scioglie i grassi. I grassi che sono presenti soprattutto nei giovani sono quelli che esistono all'interno del cervello, quindi nelle membrane dei neuroni. Quindi passando l'alcol così com'è, non essendo stato distrutto da questo enzima, si porta a via in questa azione di detergenza una sostanza, i fosfolipidi di membrana, che sono quelli che mantengono stabile la cellula. In buona sostanza è un problema irreversibile, perché la plasticità, poi la capacità di rigenerazione da parte del cervello non è quella del fegato, che tutte le sostanze, l'alcol consumato tra i 12 e i 21 anni purtroppo interferisce nella maturazione. Questo vuol dire che consumare più di 6 bicchieri di alcol in poche ore conduce in poco tempo a una riduzione del volume di una zona particolare del cervello che avete ben identificata, l'ippocampo. Il ragazzo che beve in quella maniera ha una riduzione sia della memoria sia della capacità di orientarsi nello spazio, perché l'ippocampo è il nostro GPS, il nostro diciamo tom-tom, chiamiamolo così tra virgolette, serve per orientarci e serve per memorizzare. Professore, è molto importante ricordare che l'alcol è una sostanza cancerogena e quindi può favorire l'insorgenza di tumori, e questo riguarda anche i giovani. Riguarda i giovani, riguarda soprattutto le donne che sono più vulnerabili tra tutte. Ricordiamo che superato un bicchiere di bevanda alcolica a qualsiasi età incrementa del 7% il rischio di cancro alla mammella, che diventa del 27% se la donna ha dei recettori agli estrogeni positivi all'interno del tessuto appunto del seno. Quindi l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dice: se vuoi fare prevenzione oncologica, la scelta migliore è non consumare bevande alcoliche. L'alcol avevano problemi pure gli antichi, che lo celebravano però anche con una divinità. È dunque il momento delle mitiche storiacce di Giorgio Iranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Nel mondo antico il vino aveva il suo dio. Era Dioniso, ovvero Bacco. Nelle sue feste notturne, alla luce delle fiaccole, tra musiche sincopate, grandi bevute, danze sfrenate, gli antichi vivevano l'esperienza dell'estasi, parola greca che significa appunto stare fuori da se stessi. Ma uscire da sé può essere anche un viaggio nel delirio, e non a caso Dioniso era anche il dio della follia. Attraverso il vino Dioniso entrava negli uomini e nelle donne, che erano la maggioranza dei suoi seguaci, e li possedeva. I greci chiamavano entusiasmo questa possessione, cioè letteralmente avere un dio dentro di sé. Per noi entusiasmo è una condizione positiva, ma essere posseduti da un dio non significava per i greci solo essere euforici, significava essere in suo potere. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!